pagar. Una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Oggi stiamo un po' rilassati. Osserviamo come potrebbe essere piacevole vivere alle spalle degli altri, ma non in maniera drastica, in maniera invasiva, in maniera vessatoria, approfittandosi e distruggendo la compattezza del nostro prossimo, no, con piccoli stratagemmi quotidiani. Oddio, non è che tutti ne siano capaci. Ci sono i professionisti in questa materia, ci sono quelli che stanno imparando, ci sono quelli che potrebbero darci lezioni, ci sono quelli che radicalmente non riuscirebbero mai, nemmeno lontanamente, ad entrare soltanto un istante nei panni consunti dello scroccone. Che lavoro fai? Beh, mi interesso di molte cose. Cinema, teatro, fotografia, musica, leggo. Concretamente? Non so cosa vuoi dire. Come non sai? Cioè, che lavoro fai? Nulla di preciso. Beh, come campi? Ma te l'ho detto, giro, vedo gente, mi muovo, conosco, faccio delle cose. E l'affitto? Vivo con mio fratello e non lo pago. Vabbè, dico i vestiti. Un amico per esempio che va a Londra, gli dico di portarmi delle cose, degli abiti. Vabbè, il mangiare. Mi ospitano molto spesso. Questa sigaretta qui. Ho incontrato un amico stamattina e mi ha dato due pacchetti di queste. Abbiamo tutti lambito, chi più chi meno, delle epoche in cui vivere in maniera parassitaria non veniva considerato come un'attività disdicevole, ma faccia parte di una forma creativa e artistica di vivere la propria esistenza, in cui non necessariamente un intellettuale avrebbe mai dovuto occuparsi di alcuni banali problemi pratici, come appunto procurarsi da mangiare, da vestire, da fumare, da avere attività relazionali. Il suo solo esistere, il suo solo porsi allampanato alla ricerca del senso dell'esistenza, delle forme più sublimi di equilibrio nella società, faccia sì che non potesse occuparsi di banali fatti pratici. Quindi nacque nell'epoca proclamata, celebrata, condivisa da Nanni Moretti, tutta una genia di illustri scrocconi, di parassiti che vivevano alle spalle, non so, di povere bottegaie illuminate dal loro acume e dalla profondità del loro pensiero, o di genitori che li mantenevano fino alla maturità di 60 anni, o di enti pubblici, istituzioni, associazioni, partiti e fondazioni che comunque mantenevano in vita con le loro giacchette sdrucite, con le loro scarpe scalcagnate, con i loro calzini bucati, con le loro ascelle puzzolenti. Perché rappresentavano la summa del pensiero. Ma oggi un po' la classe sacerdotale degli intellettuali organici è in lento declino, e se non ha motivi di aggregazione su Facebook, come abbiamo parlato ieri, dando anche ghiotta materia di informazioni ai quotidiani oggi. Mi fa piacere vedere che oggi i quotidiani trattano ampiamente ciò che ieri noi lambimmo e scoprimmo dell'improvviso desiderio degli italiani di vivere in maniera parassitaria la loro militanza ideologica, creando e sottocreando gruppi, sottoinsiemi, finte aggregazioni nel luogo della realtà totale e della meraviglia totale che è la rete. Ma tornando al nostro punto, quanto e in che maniera oggi è possibile stilare un manuale della vita a scrocco, visto che non esiste più la giustificazione ideologica, visto che ormai non esiste più quel reperto umanoide che rappresenta la possibilità di essere mantenuto dalla società solo per il fatto che produca pensiero. Oggi lo scroccone è un lavoro molto duro, è un lavoro che richiede regole ben precise. Beh, noi siamo qui questa mattina per darvi le regole del perfetto scroccone. Come scroccare la colazione al bar? Va al bar con due o tre colleghi di lavoro, di università o amici. Mangiati i gustosissimi cornetti caldi immersi nel caffè latte e aspetta che anche gli altri finiscano di consumare. Quando vi dirigete verso la cassa, abbi cura di prendere una posizione esterna al gruppetto. Mai in posizione centrale, ricordalo. Rischieresti di instaurare con il cassiere un rapporto di intimità monetaria. Parlerebbe con te. La posizione esterna ti permette invece di passare inosservato nelle retrovie. Quando è il momento di pagare, fingi di essere dispostissimo a saldare la tua parte di conto, però, ti accorgi che purtroppo hai solo un pezzo da 100 euro. Il barista inoltre ti sarà sicuramente complice perché non vuole svuotarsi la cassa per darti il resto. Così saranno gli altri a offrirti. Bene, arrivano le prime indicazioni preziosissime sul mio profilo di Facebook dove ho messo la domanda: i segreti del vivere a scrocco, se accettano consigli e idee per attività parassitarie. Fiorenzo mi dice: a Firenze il centro congressi è vicino alla stazione centrale. Una signora distinta e di gradevole aspetto per anni in modo scientifico si presenta all'ora di pranzo a congressi dove c'era un buffet e mangiava gratis. Ricordo anch'io in tempi lontani di anguste frequentazioni in aziende televisive di Stato esistevano le famose conferenze stampa nella sala degli arazzi. C'era sempre un codazzo di giornalisti delle più improbabili testate che andavano a tutte le conferenze stampa. Ricordo, lo immortalammo una volta assieme a Gianni Ippoliti in un video in cui intitolato Se Magna, in cui c'erano questa frotta improbabile giornaliste che erano delle signore pensionate ormai che scrivevano per qualche bollettino di parrocchia, che venivano e si scrofanavano uccidendosi il fegato e il colesterolo al ricco buffet che allora l'azienda di Stato somministrava ai giornalisti. Scroccare vestiti. Il prestito. A tutti è capitato di scroccare a un amico un maglione, una felpa o una giacca. Tutto il vestiario, e per i più smaliziati anche la biancheria intima, si presta ad essere oggetto di scrocco, scarpe comprese. Come? Fate una richiesta di prestito. Alcune volte colui che presta precisa allo scroccone che l'oggetto prestato si chiama Pietro, appellandosi alla celebre filastrocca Pietro va avanti e torna indietro. Ma come si può intuire? Pietro va avanti e torna indietro quando gli pare. E con i tempi che decide lo scroccone. 800240024. Qui a questo punto mi è prezioso il vostro consiglio. Avete mai subito lo scroccone? Oppure voi siete degli esperti dell'arte dello scrocco? Vi stiamo enumerando alcune massime basilari, poi vi dirò da dove tratte e da chi pensate e immaginate. Ma sicuramente dal vostro bagaglio personale, dalla vostra esperienza esistenziale, ne trarremo di preziosissime. Serena, sempre su Facebook, mi consiglia il vernissage, che l'elogio dello scrocco ma con cultura. È vero, una città come Roma, che è città d'arte, città di incroci, città di cultura, città di terrazze, città di parassiti e città di persone che vivono comunque all'ombra di altre persone, è meraviglioso andare il pomeriggio a vedere le presentazioni di libri, le presentazioni di atelier, le presentazioni di uomini importanti, le presentazioni di presentazioni, in cui tutte lì aspettano rimpannucciati e rimpannucciate con quei quattro abitucci che sembra Totò quando faceva l'imbucato nei pranzi di nozze. Vanno lì, fingono interesse, guardano queste croste orribili attaccate al muro, fanno anche domande intelligenti quando viene presentato un libro, anzi alcuni ci sono i tipici matti da presentazione che fanno sempre la domanda polemica, poi ci si accorge dal loro aspetto un po' dimesso, si vede che hanno lo stesso vestito da aprile a settembre, da settembre a gennaio, si vede che insomma c'è qualcosa di stanco nel loro trucco, c'è qualcosa di consunto nelle loro scarpe, c'è qualcosa di smagliato nelle loro calze, si capisce che sono dei morti di fame, che lambiscono il grande ventre grasso della grande organizzazione culturale. 800240024. Al ristorante è possibile scroccare una cena quando si decide di pagare il conto alla romana, che prevede un'equa divisione del conto fra i commensali, a prescindere da ciò che si è consumato singolarmente. In altre parole, puoi mangiare questo mondo e quell'altro sapendo che una parte del tuo conto verrà pagata anche da chi si accontenta di una tristissima insalatina. Per scroccare al meglio devi 1. Arrivare al banchetto con una fame da tirannosauro. 2. Scegliere come tuoi commensali gente simpatica ma che stia a dieta oppure che abbia problemi di digestione. Loro devono mangiare poco e niente per permettere a te di divorare il creato e successivamente spalmare sulle loro spalle il conto. Daniela mi scrive sempre su Facebook: ho pubblicato che dopo un... Dunque, vediamo. Ho pubblicato su Web Magazine che dirigo un articolo su come viaggiare Non capisco niente, guardate, è scritto malissimo. Scusate, scrivetemelo meglio e poi vi risponderò. Insomma, mi sembra che abbia pubblicato un articolo su come si scrocca viaggiando. Vediamo se riesco a aprire l'articolo, vediamo di cosa si tratta. Qui sono i tempi di apertura. Allora, taccagno, scrimper in inglese significa taccagno, ma in tempi difficili, recessione galoppante, gente male a mettere da parte la propria vena spendacciona e stare un po' attento alle spese. Vabbè, qua si consiglia in questo articolo, questa ascoltatrice che apro all'impronta, su come scroccare i viaggi. Questo potrebbe essere un altro filone importantissimo di scrocco. Ci sono persone bravissime nel fare le vacanze a casa degli altri. O vigliacco, se in 55 anni di vita nessuno mi abbia mai invitato a passare più di mezza stitica giornatina in una sua casa di campagna. Eppure c'è amici che partono con la valigia a maggio e ritornano a novembre inoltrato, hanno fatto vacanze bellissime senza spendere una lira. Invece casa mia, quando l'avevo e non era terremotata, era sempre aperta a tutti, era sempre piena di gente. Beh, le massime di vita che abbiamo appena ascoltato, i preziosi consigli di scrocco, sono tratte dal manuale dello scroccone, scritto da Giuseppe Laganà per l'editore Castelvecchi, Come vivere bene senza pagare. Quindi l'esperto in scrocco questa mattina è Giuseppe Laganà. Buongiorno Laganà. Buongiorno, buongiorno a voi. È stato importante, secondo me, un contributo veramente fondamentale al benessere della società aver stilato questo manuale. Ma cominciamo a dire innanzitutto se lo scroccone è una categoria dello spirito, è qualcuno che sceglie come vocazione esistenziale lo scroccare, o è una dura necessità e sarebbe ben triste in questo caso. Ma sì, lo scroccone è ambedue le cose, è trasversale alle classi sociali, quindi lo puoi trovare fra le persone dotate di un buon gruzzoletto in banca, lo puoi trovare fra le persone che non hanno una lira in banca, lo puoi trovare fra lo studente o meglio anche fra i professori universitari, che sono, spesso mi è capitato di constatare che sono una categoria scroccona notevole. I professori universitari? Sì, specie per le sigarette. Per le sigarette, ho capito che il professore universitario scrocca prevalentemente sigarette, o almeno è capitato questo. E dicevo, una categoria trasversale alla classe sociale, ed è una persona che ricerca anche un rapporto comunicativo con lo scroccato. Si parte dalla richiesta di una sigaretta per poi magari passare ad una chiacchierata e a conoscersi anche un po' meglio. Un errore che si fa è pensare che lo scroccone sia essenzialmente un personaggio negativo. Ora, lo scroccone, anche se... Ecco, facci capire qual è l'aspetto positivo. L'aspetto positivo. Allora, se tu vai a vedere, chiunque si può ovviamente confrontare con la commedia dell'arte, quindi con Arlecchino, con Brighella, che sono essenzialmente scrocconi, che hanno comunque un'anima buona, nascosta dietro la loro maschera, ma buona. Oppure possiamo andare nelle commedie di Plauto, dove lo scroccone non è mai un personaggio che alla fine delude. Parte sicuramente con una richiesta, si avvicina alla persona e al suo prossimo per avere un tornaconto pratico, un tornaconto materiale, ma alla fine poi quello che rimane è una comunicazione. Ma sai, su questo non sarei d'accordissimo. A me fa sempre trapelare lo scroccone compulsivo, che poi si sgama. Se è una persona che frequenti 2 o 3 volte e vedi che in 3 volte non mette mai mano al portafoglio, non è per tirchieria, ma figuriamoci, pago il caffè al mondo finché ho risorse. Quando vedi che stranamente in quel particolare momento è sempre distratto, non fa mai la mossa, è privo di quella generosità che a volte ti apre il cuore, tieni, ti offro un bicchiere di vino, questa stitichezza relazionale alla fine rende antipatica la persona. Questo almeno è il mio punto di vista, non sei d'accordo? Hai assolutamente ragione, e in effetti quello non è uno scroccone professionista, perché lo scroccone professionista, come scrivo nel manuale, è quello che non scrocca mai 3-4 volte la stessa cosa o più cose alla stessa vittima. Deve cambiare, deve avere un contesto intorno che gli permette infatti di cambiare fra virgolette. Quindi possiamo vittima. Già fare una prima suddivisione: il professionista e lo sfigato, i due scrocconi diciamo messi a confronto, quello che lo fa sempre con tutti, perché? Perché è un morto di fame interiore, non perché ne abbia bisogno, e quello che in realtà ne fa un'arte. Mi trovi perfettamente d'accordo. Perfetto. Lo scroccone è un essere sociale, deve vivere all'interno della metropoli. Infatti nei paesini, come insomma, puoi constatare, difficilmente trovi uno scroccone, perché la carne su cui una metafora brutale su cui può attaccarsi lo scroccone sicuramente è poca. Sempre la stessa. Ci sono sempre le stesse persone più o meno, e quindi alla fine non trova un suo corrispettivo. Sentiamo Stefano, cominciamo a avere delle testimonianze di vita vissuta. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Io vorrei riportare una mia esperienza che avevo sui 20 anni. Quando andavamo a cena con amici o con amici della scuola, più o meno a fine cena, abbastanza alticci, c'era sempre qualcuno che non pagava. Facevamo i conti, io ero quello che dovevo raccogliere i soldi. Quando arrivavamo alle divisioni mancava sempre la stessa quota. Per cui ho sempre sospettato che c'era qualcuno su questo ci mangiava sopra. Ma aveva dei sospetti circoscritti? C'erano persone che hanno già sintomi di scrocconeria? Sì, più o meno sì, perché più o meno le cene erano fra le stesse persone, per cui... Però ho mai avuto la certezza di tutto questo, insomma. Quindi lei faceva il conteggio delle pizze, c'era qualcuno che palesemente non aveva pagato. Una mancava sempre. Sentiamo Paolo. Paolo, buongiorno. Buongiorno, bellissima trasmissione. Vorrei essere rapido parlando di quelle che sono le provenienze geografiche degli scrocconi. Ah, quindi secondo lei esiste una sorta di predestinazione geografica dello scrocco? Secondo me ha a che fare probabilmente in parte con la cultura, in parte con la mancata riprovazione allo scrocco che c'è in alcune culture. Io ho lavorato parecchio in giro per il mondo, vorrei dire che i campioni dello scrocco secondo me sono gli olandesi. Ah, non sono i portoghesi come si diceva, no? Assolutamente no, anzi la mia esperienza è stata proprio in Portogallo, ma con un capo olandese, io ero le sue dipendenze e mi capitava molto spesso di offrire al bar piuttosto che di pagare il taxi, piuttosto che queste cose qui, e quando un giorno, anche vincendo la mia ritrosia, un ristorante dissi, beh Mino, a questo punto magari questa sera la cena la offri tu, anche per fargli capire che insomma eravamo arrivati a un punto d'arrivo, lui mi guarda e mi disse, guarda, senti, non posso proprio perché in questo momento mi dibatto un po' in difficoltà. Lui guadagnava 3 volte quello che guadagnavo io. Quindi è scroccone del genere patologico? Uno scroccone del genere patologico. In Italia invece devo dire che, a differenza di quanto si dica, i genovesi non sono per nulla scrocconi. Ma i genovesi si dice il terrificante, atroce luogo comune, siano con il braccino corto, cioè tirati nello tirare, ma non lo scroccone è diverso. Lo scroccone è una sorta di essere parassita che non è che non vuol tirare fuori del suo, secondo me, ha una sorta di piacere fisico proprio nell'attaccarsi alle risorse altrui. Guido, buongiorno. Buongiorno. Un suo collega scroccone. Sì, allora, prima di tutto complimenti per la trasmissione che sento sempre a quest'ora, è fantastica. Un collega che oggi non è più nostro collega, avevamo soprannominato... L'avete eliminato fisicamente? No, ha cambiato azienda. No, ci mancherebbe, non si può arrivare a queste cose. Non aveva più nessuno che gli offriva il caffè. Esatto. No, lui era soprannominato Bancomattino d'Oro, perché tutte le volte che si andava a mangiare, al momento di arrivare alla cassa, ah, porco cane, anticipameli tu perché devo fare Bancomat. Poi però gli abbiamo fatto perdere l'abitudine. C'era prontezza di riflessi di un mio amico, una volta eravamo io, questo mio collega e Bancomattino d'Oro, arrivando alla cassa del solito ristorante, noi avevamo già pronti i soldi in mano e lui di solita frase, ah, può fare Bancomat. Prontamente il mio amico toglie i soldi di mano a me, prende i suoi, glieli dà in mano e fa, ecco, così tieni i contanti e paghi per tutti. E siamo usciti. Sembra un ottimo gesto. Non è più venuto a mangiare con noi. Un ottimo gesto. Senta, lei che ha esperienze aziendali, nelle trasferte che si fanno normalmente per lavoro, in cui probabilmente tutti si è retribuiti, rimborsati a fronte della presentazione delle regolari ricevute, esiste anche lì comunque sempre qualcuno, parlo per mie lontanissime esperienze, che tende sempre nemmeno a fare questa fatica di comunque pagare sapendo sarà rimborsato, perlomeno di non vuole anticipare denaro. Le è mai capitato cose del genere? Lo scoccone che... da trasferta in cui nemmeno per le piccole spese sono quelle che si danno forfettare, tira fuori il suo portafogli. No, anche perché vabbè, io spese retribuite all'azienda non ne ho quasi mai fatte, mai avute, ma anche quando capitava di fare dei viaggi aziendali con colleghi e roba del genere, comunque sì, c'era il quello che magari si faceva offrire qualche volta di più ed era un pochino più restrio a mettere la mano al portafoglio, però di norma mi è andato sempre abbastanza bene. Tralascio quello che ho visto, le cacciatori, ricercatori di scontrini altrui, perché sarebbe un capitolo troppo doloroso da aprire, lo tratteremo in altra situazione. Paolo, buongiorno, finalmente un auto da fè, finalmente un coming out. Lei è uno scroccone? Sono uno scroccone. ancora, ma non mi ritrovo in alcune delle categorie che stavate descrivendo, perché ci sono diverse fattispecie, a mio avviso. Qui alla fine sento parlare di... Beh, stiamo qui facendo, guardi, degli studi di settore proprio per definire le categorie. Quindi ci aiuti. Ma quello che sento più frequentemente raccontare è l'esempio di scrocconi quasi maliziosi che in malafede, credendo di farla franca, cercano di tirar via all'amico oppure all'azienda, come invece? In questo caso. Invece io mi riconosco all'interno di una categoria che sono gli scrocconi consapevoli, ma a loro modo buoni, certamente la vedo dal mio punto di vista. Che cioè sono degli artisti, praticamente. Esatto, degli artisti, degli scrocconi da evento sociale. Sia coloro, come il sottoscritto, che non per togliere a qualcosa a qualcun altro, ma non vanno altro che alla ricerca di eventi nei quali si sa che si può andare a scroccare. Paolo, lei ha una tipologia da raccontarci ben precisa di episodi di scrocco per darci delle... Allora guardi Paolo, allora le chiedo solo una cortesia, una gentilezza. Riprenderemo la sua telefonata tra qualche istante dopo le informazioni della borsa. Si prepari, vogliamo episodi circostanziati e soprattutto delle istruzioni certe e riproducibili anche da noi apprendisti scrocconi che probabilmente cominciamo a coltivare il desiderio nascosto di approfittarci del nostro prossimo. Melog 2.0. Come entrare nei locali senza pagare? Esistono quotidiani, emittenti televisive e radiofoniche regionali, siti web e quant'altro, specializzati nel fornire una puntuale descrizione dei locali notturni più trendy. Entra nei panni del collaboratore di una di queste testate. Recupera una borsa sufficientemente ampia da lasciar credere ai buttafuori che all'interno vi sia un minimo di attrezzatura, videocamera, microfono, eccetera. Presentati ai buttafuori e dai per scontato che ti lasceranno passare. 800240024, stiamo dando preziosissimi consigli per vivere a scrocco, tratti dal manuale dello scroccone, come vivere bene senza pagare, di Giuseppe Laganà, edito da Castelvecchi. Vi do ragione di alcuni messaggi che mi stanno arrivando su Facebook. Mi sembra che l'argomento sia molto sentito, sia in attivo che passivo. Daniele, ad esempio, ha una casa grande, dice che ogni anno, sotto le feste, con la scusa che lei c'ha la casa più grande degli altri, si precipitano quintalate di amici schifosi che si portano qualcosina da mangiare ma poca roba e vogliono tutti giocare a mercante in fiera a casa sua. Quest'anno vorrebbe dare lo stop, ma sarà molto difficile perché certe convinzioni e certe abitudini sono ben radicate. Poi mi erano arrivati altri messaggi, vediamo. Una sera al pub un mio amico mi finì le sigarette perché le aveva nella giacca, che alla fine della serata ho scoperto che aveva sullo schienale della sedia. In montagna un'altra persona, amici di famiglia invitati, hanno mangiato anche le gambe del tavolo. Poi ci hanno invitato a un picnic dicendo di portarci da mangiare. Beh, sì, questi sono i morti di fame ideologici, mentali, che non c'è nulla da fare. Anche a me è capitato di andare ospite in castelli principeschi e dover essere costretto ad andare a fare la spesa per riuscire ad avere almeno un piatto di pasta, perché erano nobili, avevano un castello meraviglioso, avevano quadri di famiglia, ma stanno lì tutti a guardarmi mentre facevo il sugo come se non avessero mangiato da secoli. Abbiamo finalmente al telefono l'ascoltatrice che ci seguiva su Facebook, che aveva mandato quel messaggio che non leggevo, ma ho capito soltanto in grandi il carattere del monitor, adesso leggo perfettamente, che è Daniela e sta a Londra. Daniela, buongiorno. Buongiorno. Grazie Daniela che ci ascolti da Londra, che ci segui su Facebook, che ti abbiamo rintracciato. Dacci i consigli del viaggiatore a scrocco, mi sembra sia una tua eccellenza dare questo tipo di indicazioni. No, non è una mia eccellenza dare consigli su come viaggiare a scrocco, ma su come viaggiare sì. E in un'occasione nel web magazine che appunto curo da un po' di anni, avevo pubblicato questi piccoli consigli su come viaggiare più che a scrocco, diciamo da taccagno, e sono stata poi abbastanza attaccata dagli albergatori per questo, perché uno dei consigli che io davo era prendi una stanza standard e una volta sistemata la tua valigia trova qualcosa che non va in questa stanza, chiama la reception, lamentati e sicuramente avrai un upgrade a una stanza migliore senza dover pagare una differenza. Grande idea questa. Però gli albergatori non l'hanno gradita per niente, mi hanno scritto quasi insultandomi. Poi vedo consigli importantissimi, non usare il frigobar mai, ma portarsi le bottigliette da casa e metterle in frigorifero. Beh, anche questo, il frigo bar degli alberghi costa un sacco di soldi. Guarda, non me ne parlare, io ti parlo l'altra notte, una notte solitaria, ghiacciata in una landa desolata al nord Italia, apro il frigo bar, c'era solo il Fernet, e trovarmi a mezzanotte a bere la bottiglietta del Fernet mi ha veramente dato una sensazione mistica. Ma è una cosa che mistica. Comunque all'estero si fa normalmente, di riempire con le proprie cose comprate fuori, magari al bar dietro l'angolo, il frigo bar dell'albergo, così come adesso nessuno usa più il telefono dell'albergo che costa un sacco di soldi, o tutti usano o un cellulare o addirittura si comprano una carta prepagata nel paese in cui si trovano. E poi vabbè, una cosa banale era riportarsi a casa gli sciampini, le cremine, i saponcini degli alberghi, questo lo fanno. Le ciabatte tutti. Quelle bianche di cartoncino, le cuffiettine. Non gli accappatoi però, perché questi vengono messi in conto. Sì, beh certo, vorrei vedere. Beh, questo diciamo è un po' più da... più che da scrocconi, da taccagni di livello, perché in fondo chi viaggia dovrebbe almeno minimamente non aver bisogno di rubarsi il saponcino, se lo potrebbe anche comprare. Quindi è questa sorta di taccagneria blasonata che colpisce molte persone, soprattutto di alto lignaggio intellettuale. Quindi diciamo la maniera di scroccare la vacanza, scroccare il viaggio, infiltrarsi nei meandri delle vacanze altrui non è contemplata dal tuo vademecum. Beh, addirittura scroccare in questo modo no, però posso dirti che in tanti anni, perché io sono una giornalista di viaggi e ho visto tanti colleghi... grande categoria di scrocconi, se mi permetti. Esatto. Io tutti i colleghi conosciuto, giornalisti di viaggi, praticamente mi ricordo un'anziana collega sul far della pensione che mi disse: sai, sono 20 anni che non apro la cucina. Io ho visto un sacco di persone che si fanno le vacanze portandosi dietro moglie e mariti. Sì, ma quelli che scrivono poi di crociere, quelli che scrivono di gastronomia, non ne parliamo. Comunque questo è un altro discorso, fa parte degli scrocchi professionali che molte volte sono leciti, fanno parte del pacchetto retributivo di chi si occupa di queste materie. Ti ringrazio, grazie mille Daniela. Chiudiamo con Paolo, con cui avevamo chiamato prima, che penso si sia preparato per darci alcuni importanti consigli su come si scrocca in eventi sociali. Paolo, eccoci con te. È semplice, basta ogni, direi, sabato mattina andare in un qualsiasi bar e recuperare la prima copia del giornale locale e si va a guardare tra gli eventi che vengono suggeriti per il fine settimana e si troveranno sempre mostre di quadri, rinnovo locale di negozi di abbigliamento, bar che hanno appena cambiato gestione, piccoli eventi associativi dove innegabilmente sempre c'è da mangiare e da bere in grandissima volontà. E la cosa più bella di tutte è che ci si può andare senza nemmeno far finta di essere interessati, senza far finta di conoscere qualcuno. Ah, si va, si mangia, se ne va via così. Esatto, sì. Senti, ma esiste nella tua categoria, qualcuno fa un passo oltre, le famose tasche del paltò rivestite di cellofan per potersi anche portare via qualcosa no, a casa? No, cioè non ne ho mai visti di così palesi. Si vedono certamente anche in queste occasioni coloro che ci vanno non per diletto come faccio io, ma per effettiva necessità. Ma non si arriva a tanto, insomma. Va bene, sono anche note tristi queste, molte volte lo si fa per bisogno. Io devo dire che mi capita spesso di vedere questi vernissage, signore e signori molto malmessi, che siete chiaramente vanno lì e si buttano sul buffet, mettono la pasta e quattro formaggi sopra il couscous con uno strato di fettine, in mezzo ci mettono qualche salsiccia, poi sopra ci buttano il gelato, il dolce, fanno insomma dei terribili pasticci pur di riuscire a portare via più quantità possibile. Riprendiamoci con Giuseppe Laganà. Laganà, ti abbiamo fatto ascoltare quello che è delle tranche di vita, vediamo come puoi integrarle in realtà con le tue scientifiche cognizioni. È stata molto approfondita la trasmissione, quindi complimenti. Ringrazio anche gli ascoltatori, insomma, che sono veramente mi è capitato di ascoltare scrocconi professionisti, insomma. Beh, sai, quindi, voglio dire, quindi, ci muoviamo in una fascia medio alta, quindi certamente. Una precisazione che mi piacerebbe fare a questo punto, ma che hai in parte già chiarito tu, è la differenza tra lo scroccone e il taccagno. Non per forza lo scroccone è un taccagno, anzi, lo scroccone scrocca così, come se lo scrocco fosse un'arte, nel momento in cui poi si trova ad offrire, magari offre anche, anzi, ripeto, La cosa importante è il rapporto che rimane dal successivo al rapporto di scrocco. Il libro, il manuale dello scroccone, ha voluto fotografare, cercando di mettere quanto più a fuoco possibile, una realtà che esiste, appunto lo scrocco come trasversale delle classi sociali, ma soprattutto lo scroccone che a sua volta sicuramente è stato scroccato in passato. Senti, c'è un'altra cosa, ci sono alcune lati che non abbiamo ancora toccato e lambito. Uno in particolare, io intervistai anni fa una signora molto simpatica che vive al centro di Roma, che è la scroccona super professionista, è interdetta nel senso che è stata giudicata incapace di intendere e volere, quindi non può essere nemmeno essere arrestata o perseguitata, ma comincia il suo giro la mattina cominciando ad andare prima nei punti dove danno i prodottini di bellezza gratis, poi entra nei saloni, fa i trattamenti, poi va ai ristoranti, insomma è sempre bellissima, truccatissima, postissima, non spende mai una lira. Lo scrocco tipicamente femminile, andare a prendere la cremina, il campioncino del profumino, esiste, è considerato una delle attività contemplate oppure è materialmente marginale rispetto allo scrocco per eccellenza? Ma io nel manuale scherzo sul fatto che la donna, secondo me, è lo scroccone assoluto, perché può sicuramente esercitare la sua arte appellandosi anche alla necessità che c'è anche nel 2009, nel 2010, per l'uomo di dimostrare la propria cavalleria, no? Quindi comunque sia mettendo in risalto i propri attributi femminili. Ma quello è un tenero patto di passione, chiaro. Però è vero che è così, certo. Sì. Beh, certo, che vanno da, appunto, attributi femminili, dall'intelligenza alla bellezza, e sicuramente può fregare maggiormente. Guarda, io purtroppo sono stato educato all'antica, non riesco a sopportare l'idea di una donna che metta mano al portafoglio in mia presenza, quindi a volte compio degli atti sconsiderati per chi non lo merita, ma è così. Cioè, è la cultura che ha fatto sì che la donna diventasse lo scroccone assoluto, appunto. È una conferma a quello che stavo dicendo. Questo che hai detto ci costerà gravissime reprimende da parte del pubblico femminile, ma siamo qui per prenderle. 800 24 00 24. Max, buongiorno. Io volevo annoverare tra le categorie degli scrocconi volevo creare una nuova categoria, che è quella dello scroccone che io chiamo scroccone ruffiano o scroccone donatore. Mi è capitato di partecipare ad un convegno organizzato da un'azienda in un ristorante, ovviamente l'azienda offriva la cena, e alla fine della serata un collega si è alzato e, salutando l'amministratore delegato di questa azienda organizzatrice dell'evento, ha preso su due bottiglie di vino in esposizione in questo ristorante, donandole a questo amministratore delegato, augurando... E chi pagava? Alla fine le due bottiglie ovviamente sono andate sul conto dell'azienda stessa, quindi questo signore si è appropriato di queste due bottiglie e ha fatto credere a questo amministratore delegato che fosse un dono suo personale. Beh, poi io dubito che l'amministratore delegato sia così ingenuo da scambiare un atto di vile leccaculaggio a spese dell'azienda come un atto di generosa attenzione, quindi probabilmente... Ma guardi, di solito i personaggi di potere, ma tutti noi amiamo comunque illuderci del fatto che gesti del genere scaturiscano da un'ammirazione per le nostre indiscutibili doti, e passiamo sopra anche a questa categoria, che in realtà è una sorta di derivazione laterale rispetto allo scroccone, e colui che usa lo scrocco ai fini di un proprio vantaggio e un proprio prestigio. Melog 2.0. Il portafogli smarrito. La tecnica è molto elementare. Ti trovi a pranzo o a cena con amici. Quando arriva il momento di pagare il conto, in scena la perdita del portafogli. La tua interpretazione deve essere da Oscar. Arriva il conto, metti una mano in tasca e fai per prendere il portafogli. Non lo trovi. Continui a cercarlo e ti dimostri sorpreso. Sbatti un pugno sul tavolo, ipotizza un furto, impreca contro i fantomatici ladroni. A questo punto, dal casino che riesci a produrre, i tuoi commensali si dovrebbero dimostrare interessati a capire cosa ti può essere successo. Non hai i soldi per pagare il conto, e questo è tutto. Al resto ci penseranno loro. Sempre un consiglio di perfetto scroccone, tratto dal manuale dello scroccone Giuseppe Laganà, ma sentiamo Sergio. Sergio, buongiorno. Buongiorno a tutti, io volevo dire due cose. Lei vuole fare un passo avanti rispetto al vecchio trucco del portafoglio smarrito o rubato? Sì, voi state parlando dei professionisti, io volevo parlare dei degli scrocconi dilettanti, il vecchio giochino del fare lo squillo per farsi richiamare. Adesso c'è qualcuno che si è evoluto, giustamente non fa più lo squillo, manda. Quando uno telefona e trova spento, cosa succede? Alla riaccensione della persona che si cerca, si ritrova il messaggino: ti ho cercato, ti ho chiamato, adesso non mi ricordo come. È sufficiente inoltrare questo messaggio e la persona che lo riceve, giustamente, richiamerà. No, no, non mi spieghi il meccanismo, non ho capito bene. Allora, voglio che lei mi chiami, non voglio sprendere la telefonata, non voglio chiamarla io. Cosa faccio? Allora, io lo dico perché siccome avevo un amico che usava sto giochino, praticamente cosa fa? Lei telefona alla persona, giusto? Sì, la chiamo. La persona trova spento. Ma deve trovare spento. Non è raggiungibile, giusto? Mm. Bene, trovando non raggiungibile la persona, quando la persona riaccenderà il telefono, la compagnia, il gestore, le invierà un messaggio e le dirà: guarda che la persona che cercavi... ti ha cercato, è raggiungibile, bene. Ma a me che sono stato raggiunto, arriva il messaggio con scritto che Nicoletti mi ha chiamato, ti ho cercato, giusto? Allora richiamo subito. Bravo. Allora è sufficiente, quando lei ha un messaggio di questi, prenderlo, memorizzarlo, salvarlo, inoltrarlo. Chi lo riceverà, riceverà il messaggio con scritto. Beh, però spendo un SMS. Ho capito, ma meglio spendere un SMS che spendere 3 euro. Mando sempre quel messaggio lì. Quindi io che non stacco mai il telefono, però come me lo giustifico? Il mio telefonino è sempre acceso giorno e notte. Vabbè, ho capito, ma sa... Dice, normalmente la gente lo spegne quando va a dormire. Non prende bene, cavolo, non prendeva bene. No? Quindi io mi tengo in memoria dei miei SMS, uno con scritto chiamata, così lo mando e chiunque mi chiamerà con questo SMS. Sì, ho sgamato un amico che faceva questo giochino, perché... ho capito dopo che lui cosa faceva, il messaggio salvato con scritto alle ore che ho cercato aveva scritto XXX, ha sbagliato, non ha corretto l'orario, io ho ricevuto il messaggio con scritto che infame, cambiava ogni volta l'orario. Bravo. Vabbè, proprio una cosa da veramente da pezzenti. Andiamo avanti, terminiamo con Luca, poi facciamo una svolta. Luca, buongiorno. Velocissimo, buongiorno. Perché abbiamo un colpo di teatro finale. Sì, allora, velocissimi. Guardi, vi sto ascoltando, io sono qua in macchina e io credo che il discorso dello scroccone è un discorso di fobia, cioè è una sorta di malattia, è del godere nel non spendere. Io ho un amico caro. Ma tanto gusto spendere, non capisco, la cosa più bella del mondo. No, per me, per lei e per tanta altra gente, invece per altra gente è un dolore proprio, è una sorta di fobia. Guardi, io un amico veramente molto molto caro che è un vero artista, adesso le racconto una gag velocissima di una volta che andai via per lavoro e lui dice: guarda, vengo con te perché devo andare anch'io lì, no? Adesso non faccio nomi, non faccio città, e insomma, morale della favola, è venuto in macchina con me, siamo andati, ovviamente non ha mai messo mano al portafoglio né per un caffè e via dicendo. Dopodiché io in quella l'ho mollato in un posto e poi alla sera dici: guarda, io mi devo trattenere qui per lavoro perché le cose vanno avanti per la lunga. E insomma, morale della favola, lui tutto così si è un attimo, diciamo, risentito, l'ho mollato in stazione e ho detto: beh, adesso devi tornare a casa, cioè, dormi qua con me in albergo oppure... E che ha fatto? Niente, lui è montato sul treno, poi tornato nella sua città e il giorno dopo mi ha confessato che ha fatto il viaggio del bagno. Faccio a scocco. Beh, questo è veramente un compulsivo. Ma esiste una sorta di genetica innominabile e inconfutabile maniera di vivere alle spalle degli altri? Claudia Bordese, buongiorno. Buongiorno. È una divulgatrice scientifica, autrice del libro Vivere a spese degli altri e Elogio del parassitismo, Blu Edizioni, però lei parla di animali, quindi nella nostra natura animale esiste un gene che ci fa, che costringe ad essere parassiti a volte? Nella nostra natura umana direi che ne avete dibattuto a sufficienza durante la trasmissione. Quello che io posso dire è che non abbiamo assolutamente inventato nulla di nuovo. In natura gli scrocconi la fanno veramente da padroni da milioni di anni. Per dire, la maggior parte delle specie viventi sono parassite. Quindi la tecnica, la strategia di vivere a spese di un altro organismo vivente è estremamente diffusa in natura. E le risorse alle quali si fa ricorso sono praticamente praticamente tutte, dal cibo alla casa, allo spostamento, allo sfruttamento del lavoro. Quindi nel meccanismo dell'evoluzione lo scroccone rischia di essere quello che sopravviverà a tutti gli altri? Indubbiamente ha resistito moltissimo, perché ci sono degli scrocconi animali che vivono in questa condizione da centinaia di milioni di anni. Ci faccia un esempio, qual è l'animale più scroccone della storia del creato, diciamo? Non credo che si possa stilare una classifica in questo senso. Sicuramente ci sono degli acari che sono parassiti da centinaia di milioni di anni. Anche è difficile fare un esempio per il semplice fatto che il parassitismo è diffuso in tutti i gruppi di animali. Per questo si dice pidocchioso, quando una persona è un po' tirata. Il pidocchio è l'esempio classico. Il pidocchio è un vero parassita tipico, intanto perché lui non sfrutta soltanto il cibo dal suo ospite, che poi il sangue che lui succhia dal nostro cuoio capelluto, ma anche il trasporto, l'abitazione. Lui se ne sta tranquillo al calduccio tra i nostri capelli e in questa maniera qua gira il mondo, perché gli basta saltare da una chioma all'altra e nell'arco di pochi mesi, se vuole, ha fatto veramente il giro del pianeta. Ma non c'è soltanto chi sfrutta il cibo, chi sfrutta la casa, chi sfrutta il viaggio, c'è chi sfrutta anche le risorse accumulate dagli altri, ed è veramente lo scroccone come lo intendiamo noi. C'è una piccola mosca che riesce a intrufolarsi negli alveari per andarsi a mangiare le riserve che sono state messe via nelle cellette per le larve che dovranno poi svilupparsi in api adulte. Sarebbe quelle signorine rovina famiglia di cui si parla tanto oggi, più o meno. Esattamente, ma questa mosca lo fa con una maggior cura e con animo, se vogliamo, un po' giacobino, per il semplice fatto che va ad attaccare e a mangiare, soprattutto nelle cellette riservate alle larve che dovranno diventare api regine. Quindi è come Zorro, praticamente. Esattamente, ma andando a privare del nutrimento regale queste larve a fine del loro sviluppo non saranno api regine, ma semplici operaie. Ed ecco che quindi ha dato una bella mazzata anche a quelle che erano quindi le velleità. Mi sembra di capire con grande terrore che, ahimè, noi ci estingueremo, noi cicale, noi prodighi, noi innamorati del generoso elargire agli altri, e lo scoccone sopravviverà. Ringrazio Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini e mestamente. Do appuntamento a domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.